Ingrid. I bicchieri erano vuoti, i piatti erano stati portati via da una cameriera e la conversazione cominciava a languire. Le pause erano diventate sempre più lunghe. Carina aveva gli occhi lucidi per la stanchezza e per il vino. Il vocio proveniente dal bar era sempre più fastidioso e la muraglia di persone sempre più vicina al loro tavolo. Ingrid si sentiva euforica, che fosse per l'alcol o perché si era accorta che gli uomini la guardavano ancora con un certo interesse. Probabilmente una combinazione delle due possibilità. Soprattutto uno degli uomini seduti al bar aveva attirato la sua attenzione. Doveva essere sulla trentina, con i capelli scuri, in jeans e camicia neri. Continuava a guardare spudoratamente dalla sua parte e Ingrid ricambiava lo sguardo di quegli occhi chiari. «Ce ne andiamo?» chiese Carina allungandosi a prendere la giacca. «Certo», rispose lei. Allo stesso tempo, però, non voleva che la serata finisse. Non voleva tornare alla casa grande e vuota di Bromma. Presto sarebbe stata libera. Libera di fare ciò che voleva. Tommy avrebbe avuto quello che si meritava e lei sarebbe tornata alla vita. Fu invasa da un'aspettativa inebriante. «Aspetta un attimo», disse. «Devo andare in bagno». Mentre raccoglieva le sue cose e si dirigeva verso la toilette, Ingrid si sentì addosso lo sguardo dell'uomo. Dopo essersi chiusa la porta alle spalle, tirò fuori dalla borsa una vecchia banconota, il sacchettino di coca, e se ne preparò una striscia, come vedeva fare alle sue amiche più scatenate quando ancora stava fuori tutta la notte. Lei non aveva mai usato droghe, a parte un paio di tiri di hashish durante un weekend a Copenaghen, da ragazzina. Sniffò la polvere bianca, controllò con la videocamera del cellulare che non le fossero rimasti residui sotto il naso e uscì. Il mondo girava attorno a lei, più morbido, più scintillante. Attraversò rapidamente il locale e raggiunse Carina che la aspettava. Una volta in strada, si abbracciarono davanti alla fila di taxi in attesa. «Prendi pure tu il primo», disse Ingrid, indicando la macchina con le insegne di Taxi Stockholm. La salutò con la mano e aspettò che l'auto svoltasse l'angolo. Poi rientrò da Rike e si avvicinò all'uomo in nero che la guardò sorpreso. «Abiti da queste parti?» gli chiese. «A Vasastan». «Bene, dammi l'indirizzo, poi esci e prendi un taxi». L'uomo si mise a ridere. «Odengatan 35». Cinque minuti dopo, Ingrid era seduta su un taxi che scendeva lungo Birger Jarlsgatan. Le batteva il cuore e le girava la testa. Si infilò con discrezione una mano tra le gambe e verificò di essere bagnata.